Decima unità. Festa all'università. Dialogo. Fra amici. Vedi quella ragazza? Quale? Quella che sta ballando con Tommaso. Ah, la bionda. Ma è Marisa, non ricordi? È la ragazza che abbiamo visto al ballo della matricola. Sì, è proprio lei. Ti piace? Non è il mio tipo. Perché ti interessa? Beh, mi sta dietro. Almeno credo. Mi ha chiesto gli appunti di biologia. Poi mi ha telefonato 2 o 3 volte per avere altre spiegazioni. E allora? Tutte scuse per parlarmi. Scusa, se è vero che tu le piaci tanto, come mai balla sempre con Tommaso? Perché l'ha invitata lui alla festa, quindi... Guarda, guarda, sta venendo qui da noi. Chissà, forse si è decisa a parlarti sul serio. Ciao, Sergio. Come va? Bella festa, eh? A proposito dei tuoi appunti, ecco, li ho persi. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Vedi quella ragazza? Quale? Quella che sta ballando con Tommaso. Ah, la bionda. Ma è Marisa, non ricordi? È la ragazza che abbiamo visto al ballo della matricola. Sì, è proprio lei. Ti piace? Ma non è il mio tipo. Perché? Ti interessa? Beh, mi sta dietro. Almeno credo. Mi ha chiesto gli appunti di biologia. Poi mi ha telefonato 2 o 3 volte per avere altre spiegazioni. E allora? Tutte scuse per parlarmi. Scusa, se è vero che tu le piaci tanto, come mai balla sempre con Tommaso? Perché l'ha invitata lui alla festa. Quindi, guarda, guarda, sta venendo qui da noi. Chissà, forse si è decisa a parlarti sul serio. Ciao, Sergio. Come va? Bella festa, a proposito dei tuoi appunti, ecco, li ho persi. Vocaboli, pagina 251. Pittura. Golf. Ballo. Danza classica. Tennis. Scultura. Calcio. Pugilato. Aerobica. Vocaboli, pagina 252. Cantare. Ballare. Suonare. Sciare. Nuotare. Vocaboli, pagina 253. Minestra. Burro. Riso. Prosciutto. Olio. Pesce. Pizza. Formaggio. Pasta. Pane. Carne. Vocaboli, pagina 255. Lasagne. Tagliatelle. Salsicce. Tortellini. Verdure. Dolci. Spaghetti. Maccheroni. Dolci siciliani. Vocaboli, pagina 257. Occhi. Chiari. Scuri. Naso. Grosso. Sottile. Collo. Corto. Lungo. Capelli. Biondi. Castani. Bocca. Grande. Piccola. Decima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 17. Curiosità interessata. Guarda, non è la ragazza di Marco. Sì, è Lidia, ma ora non sta più con lui. Perché? L'ha lasciata? No, è il contrario. Lei si è messa con un altro. E sai chi è? L'ho visto più volte con lei, ma non so come si chiama. È un bel ragazzo? Secondo me è più bello di Marco. È molto alto, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. E si veste bene? L'ho visto sempre in jeans, ma con delle camicie bellissime. Insomma, mi è sembrato elegante. Quanti anni può avere? Più o meno 22. Allora ho capito, o almeno mi pare. Deve essere Pietro, il ragazzo di Pisa che studia con il fratello di lei. Come lo sai? Li ho visti insieme al ballo della matricola e dalla tua descrizione mi sembra proprio lui. Ma perché ti interessa tanto sapere se è lui? Perché Pietro mi piace. Vuoi sempre metterti con Marco, no? No, a me piacciono i ragazzi alti e biondi. Lui invece è basso e bruno. Ma tu credi proprio di essere bella? Bella no, ma carina sì. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 263. Come ti è sembrata la moglie di Sarti? Non male, anche se non è il mio tipo. Hai visto che naso? Enorme. E che bocca. Ma dove l'ha trovata una donna così brutta? Però ha dei begli occhi e delle mani lunghissime, da pianista. Ti sembrano belli perché si trucca. Vorrei vederla appena si sveglia. Le mani poi, sì, sono lunghe, ma poco curate. Insomma, non ti va bene niente della Sarti. Per te c'è solo grazia. Lei sì, è bellissima. Non c'è confronto con nessun'altra. Sei proprio innamorato, eh? Beato te.